Ondivago Doc, documenti sonori. Ondivago Doc prosegue nell'esplorazione dei documenti sonori del futurismo. Il movimento marinettiano continua a destare interesse, soprattutto a livello pittorico. La figura del suo inventore e motore, Caffeina d'Europa, tuttavia spesso cade nel dimenticatoio, viene messa in secondo piano e la riabilitazione ha toccato prima i discepoli del maestro. Esiste un museo che valorizza De Pero, nessuno che sostenga Marinetti, i cui documenti sono proprietà degli Stati Uniti. Claudia Salaris, una delle studiose più attente del movimento, ha denunciato la scarsa attenzione per Marinetti e il particolarismo in cui sono finite le celebrazioni del centenario. Un anniversario molto scoordinato dove è mancata un'unica regia. Ma è meglio rimandare questa analisi del futurismo. Per ritornare sui documenti sonori, farli risentire è forse un modo per dare a Marinetti e soci un microscopico risarcimento. Marinetti, che nacque ricco e morì povero, dopo aver dato tutto per la causa futurista, anche da mangiare ai suoi colleghi. La sua generosità lo portava ad aprirsi verso gli altri, anche i più giovani. Lo ricorda Calvesi, lo storico dell'avanguardia, che lo incontrò come giovane poeta. Ma adesso lasciamo la parola ai futuristi stessi. Ascolteremo per primo un brano di De Pero. Il titolo è Tramvai, nell'interpretazione di Arrigo Loratotino, per la raccolta Futura poesia sonora. Avevo un tale appetito che i sensi mi si elettrizzarono ed ebbi voracissimo desiderio di mangiare. Lire 7,75 centesimi, bollito e minestra, narici pendoli, vescicospandere, assorbimento autotigmatico, starnuzin, ziozin, pepa, tatò, papè, pipè, Gipun forkendere, lucitagli la mafettire, tagliz, minuz, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, politichilla nello esofamagosto, ezze bomi, lente giama, caleice lucere, brilli, nervi, ciaire, di, ge, ri, re. Ebbi sete tale da volermi sconciamente ubriacare. E, oe, olla, eia, ah! Un mezzo, uno, cinquanta, mille! Cobria, zabar, titu, capor, ya! Mala, tem, lucar, uno, dieci, ancor, infini, cobria! Glu, glu, glu, glu, gluampa, gluspen, glubuon, glureden, glubodon, ah, cibuol, lece lembrò infinico bria litritò tribon vino soros. Ad un tratto mi ricordo d'un appuntamento alle 1:20 e pago il conto 10:50. Vado incontro al tram che saluto metallicamente. Tlem tla ticom viemi bicarom tram mecom sai ti sto rissi comissi fussi ito stai mei flemme vrei vrei oi sopra sotra. Il tram ferocemente macchinario mi risponde: plommo plammo a mizir king lissi wissi strabirti zing ogolo anga bulizi bum bum sbre come un canal zinghilonga tan clatan clogo socra mattocrati cru tu quis quec luc zau socre pink ping, fuing, così ping, zlinghi. È morto! Un passante viene schiacciato dal tramvai. Eco lontana, miagolante, del funerale. Ste, sobeom, dominum, pecheum, foneum, sabateum, mirome, uise, conteniau, beum. Christi, miserere, beatum, misericordiam tua. Era uscito l'Italia! Il piccolo! E il grido si disperse in arabeschi vocali. Colli tipico, cocchi, cupurilli, tipico. Proseguiremo poi con alcuni brani originali di Luigi Russolo. Luigi Russolo, brevemente, è stato un compositore e pittore italiano, nato nel 1885. Ha fatto parte, quindi, del gruppo Futurista. Futurista è firmatario del manifesto L'arte dei rumori, 11 marzo 1913, in cui si teorizzava l'impiego del rumore nel contesto musicale, e considerato il primo uomo ad aver teorizzato e praticato il concetto di musica elettronica, sostenendo che la musica doveva essere composta prevalentemente di rumori e non di suoni armonici. La sua musica veniva eseguita con uno strumento da lui stesso ideato, l'intonarumori. Un apparecchio meccanico capace di sviluppare suoni disarmonici e avanguardistici, subito battezzati nelle performance di questo movimento musica futurista. Nel 1922 costruì il rumorarmonio, mezzo necessario ad amplificare gli effetti musicali creati dall'intona rumori. Il primo brano di Russolo si intitola Risveglio. La descrizione è assolutamente antiromantica e antidannunziana. Il rumore in Russolo diventa linguaggio. Il secondo brano di Luigi Russolo si intitola Crepitatore. Il terzo brano di Luigi Russolo si chiama Ululatore. Il quarto brano, rumorista, ha a che fare con le rane e si intitola Gracidatore. Il quinto brano di Russolo, Gorgoglia, ed è etichettato Gorgogliatore. Anche il ronzare non manca con il ronzatore. Oltre all'intona rumori, Russolo inventò anche l'arco enarmonico. Una sorta di sega meccanica che consentiva di ottenere rumori metallici da normali strumenti a corda. Viene chiamato enarmonico ad indicare la enarmonia, la naturalità ed il glissando pieno di possibilità del suono. Corale è un brano di Russolo, presentato a Parigi nel 1921. Si trattava per lui di realizzare concerti su base rumorista, sfidando la tradizione. Thank you. dovunque ci troviamo, ciò che sentiamo è principalmente rumore. Quando lo ignoriamo ci disturba, quando lo ascoltiamo lo troviamo affascinante. Da un discorso di John Cage del 1937. Majakovskij nasce nel 1893 e muore nel 1930. Dopo il suo trasferimento in giovane età a Mosca, nel 1914 aderisce al cubo futurismo russo, firmando assieme ad altri artisti, tra cui Klebnikov, il manifesto Schiaffo al gusto del pubblico. Come sappiamo, il suo tentativo di portare l'arte al potere verrà soffocato fino a portarlo al suicidio. Soffocato da uno Stalin che, come scrive Grois, si ergeva a sommo artista. Ma il 1918 è ancora a tempo di utopie e il suo testo, Ordinanza all'esercito dell'arte, è carico di sogni e aspettative. L'interpretazione per la raccolta Futura è di Valery Voskobojnikov. Ветер колючий трубе вырывает дымчатой шерсти клок. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы чёрный чулок. Приказ по армии искусства. Канителят стариков бригады, канитель одну и ту ж. Товарищи, на баррикады! Баррикады сердец и душ. Только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег. Довольно шагать, футуристы. В будущее прыжок. Паровоз построить мало, накрутил колес и утек. Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток? Громоздите за звуком звук вы и вперед, пая и свища. Есть еще хорошие буквы Р, Ш, Щ. Это мало, построить парами, распушить по штанине канты. Все совдепы не сдвинут армий, если марш не дадут музыканты. На улицу тащите рояли, барабан из окна багром. Барабан, рояль раскрояли, но чтоб грохот был, чтоб гром. Это что, корпеть на заводах, перемазать рожу в копоть и на роскошь чужую в отдых осовелыми глазками хлопать? Довольно грошовых истин. Из сердца старое вытри. Улицы – наши кисти, площади – наши палитры. Ordinanza all'esercito dell'arte. Cantilenano le brigate dei vecchi, la stessa litania. Compagni, sulle barricate! Barricate di cuori e di anime. È vero comunista solo chi ha bruciato i ponti della ritirata. Basta con le marce, futuristi, un balzo nel futuro! Non basta costruire una locomotiva, fa girare le ruote e fugge via. Se un canto non saccheggia una stazione, a che serve la corrente alternata? Ammonticchiate un suono sopra l'altro e avanti, cantando e fischiettando. Ci sono ancora buone consonanti, R, S, Z. Non basta allineare, adornare i calzoni con le bande. Tutti i soviet insieme non muoveranno gli eserciti se i musicisti non suoneranno la marcia. Portate i pianoforti sulla strada, alla finestra, agganciate il tamburo. Il tamburo spaccate, il pianoforte, perché un fracasso ci sia, un rimbombo. Perché sgobbare in fabbrica? Perché sporcarsi il muso di fuligine? E la sera, sul lusso altrui, sbattere gli occhi sonnacchiosi. Basta con le verità da un soldo. Ripulisci il cuore dal vecchiume. Le strade sono i nostri pennelli. Le piazze, le nostre tavolozze. Non sono stati celebrati, dalle mille pagine del libro del tempo, i giorni della rivoluzione. Nelle strade, futuristi, tamburini e poeti. Abbiamo ascoltato Ordinanza all'esercito dell'arte di Vladimir Majakovskij. Finisce questa seconda puntata di On Divago Doc con i documenti futuristi. Sono fondamentali per comprendere il mondo che ci circonda e anche la musica contemporanea. Questo viaggio all'interno delle avanguardie storiche proseguirà nella puntata successiva. Chiaramente dal futurismo passeremo al dadaismo e al surrealismo, attraversando le esperienze più interessanti del Novecento. Arrivederci alla prossima puntata.